In quelli che furono opulenti palazzi vocianti di grida festose, tra le crepe dei muri ora sgusciano lucertole e verdi ramarri. Nelle desolate alcove, appesi alle travi, dormono i pipistrelli. Intatta e ammutolita la campagna, al capriccioso capovolgersi delle vicende umane, e la mente vacilla al pensiero che tutto travolge il fato inesorabile, il tempo impietoso. Stridono le cicale tra gli olivi sotto un sole accecante. Paesaggio scozzese. Qui, laghi incastonati tra verdi boschive e colline, lambiti dalla carezza di un pallido sole, quiete e dorate le acque. Si apre l'ondulata distesa di prati umidi di pioggia e tutto è verde, intenso verde, che abbaglia gli occhi e la mente. Ma in noi sottentra insidioso, inquietante, il pensiero del passato, di religiosi conflitti e di sangue. Invocazione. Seduti sul pavimento di pietra, in un debole cerchio di luce, le loro ombre ondeggiavano sulla parete. A un tratto una voce ruppe il silenzio. Ascolta, Signore, le nostre voci. Il cuore è affranto, la mente confusa. In questa afflizione anche la speranza si spegne. Mostra la tua giustizia. Nelle volte semibuie echeggiava l'invocazione, saliva verso il cielo. A terra il sinistro lume dei ceri e l'acrido odore di fumo. Il dolore si addice agli oppressi, la guerra in Iraq. Come potremo obbliarci alle incantevoli visioni che la natura a ogni passo ci porge, e magari cantare il nostro stupore e le fuggevoli gioie al solo sentire gli echi di questa immane tragedia? Le nostre pene impallidiscono dinanzi al grido imbavagliato delle madri, al pianto angosciato del bimbo che non conosce il male dell'uomo, il dolore e la morte. Dio non interviene nel dolore innocente. Forse non ha torto Epicuro, dicesti che a intervenire si incrina la divina felicità. Il dolore si addice agli oppressi. Alba a passo tubre. Sul livido stagno si levano i gigli palustri e gli aconiti azzurri, tesi ad ascoltare il sibilo delle marmotte, che ritte pregano sulle pendici nevose al ritorno del sole, quando tra le guglie annuncia il suo trionfante splendore. Tra i mughi sparsi aleggia un'aura di trepida attesa. Naviglio a Milano. Brillano qua e là, della luce dei lampioni, le acque scure del Naviglio a Milano, che lente, pigre, scorrono a contrastare la folle corsa di persone che all'incedere della notte affrettano il passo e di auto in fila sul lucido asfalto tra impazienti colpi di clacson. Così che nasce la domanda: perché tanto affrettarsi per raggiungere un provvisorio approdo. Lente, pigre, scivolano tra gli argini e sotto i ponti, le acque scure del Naviglio, a Milano. Uccello migratore. Uccello migratore, che a volo radi laghi, fiumi e spiagge marine, e varchi gli oceani per sostare ai soleggiati tropici. Come somiglia il tuo al mio peregrinare d'un tempo. Ora non resta che ricordare, perché c'è un tempo per vivere e uno per lentamente morire. Cantano i merli. Cantano i merli sulle cime degli alberi la fine dell'inverno. Ma per noi l'inverno non ha fine su questa landa desolata e cupa dei ricordi, delle emozioni troppo accese che imbavagliano la bocca. Sono caduti a uno i compagni di viaggio, ora sepolti nella neve dell'oblio, e non sai più nulla di loro. Svolazzano neri pipistrelli nella notte del cuore. E voi, che ho tanto amato e cantato, vi siete chiusi in un silenzio che disarma l'anima e nega la speranza. È la morte una fine apparente che genera dolore? Fosse così, ci potremmo ancora consolare nell'illusione un giorno di ritrovarci e nella vostra pace, uscendo dal ciclo doloroso, tutto di quaggiù dimenticare. Lei. D'improvviso dal monte s'era alzata la luna e la notte si popolò di bisbigli di nidi svegliati, di lamenti irritati di cani. Lei veniva, allampanata ombra, e dentro quel freddo mi parlava della vita perduta, della rinascita. Accanto a quella caccia smaliziata, altro non ebbi che il suo sentirsi ancora da tutti odiata. «Ben conosco i tuoi moti», dissi, «e quella forza che assicura. Ma sei inanimata, come pretendi fra le tue braccia donare di nuovo la vita?» A Santa Valpurga. A Santa Valpurga d'inverno tengono i morti in soffitta fino a quando arriva al primo pallido sole il disgelo. Così tutti si sentono vicini al proprio caro. La sera, al flebile lume delle candele, invocano lo spirito che aleggia nella stube, ne chiedono la protezione. E i vivi, allora, nei loro giacigli, dormono sonni sereni. Il pozzo. Lei, fresca di rugiada, le spalle appena dorate dal sole, attingeva l'acqua dal pozzo e un giovane ardente seduto sull'orlo, preso da incanto, le rivolse dolci, accorate parole. Solo il suo abbraccio poteva dar pace al suo cuore. Era di quelli che si sentono morire quando amano. I tramonti dorati di Istanbul. I tramonti dorati di Istanbul. Le prolungate sere di Lisbona. L'improvviso cadere della tenebra nel tardo pomeriggio a Copenaghen. Le notti bianche a Pietroburgo. Ora li tengo nel cuore, quei momenti, con uguale stupore e smarrimento di chi sentiva svanire la coscienza e divenire intatto specchio. Ricordo, per la salita imbiancata di neve, si andava alla prima messa che era notte, con la luna già tramontata dietro il monte e il vento che fischiava. E quando dal pulpito il prete esortava i fedeli, noi ragazzi, infreddoliti, di soppiatto, uscivamo a tirarci le palle di neve. Ci sorridevano i nostri cari dal vicino camposanto, irto di croci. Anamnesi. Nel porto di Trebisonda mi aggiro. Alberi di imbarcazioni alla fonda, navi verniciate di bianco pronte a salpare, marinai e calafati, lingue diverse nel vocio continuo, assordante. La mia rotta allora era sempre uguale, fino a Odessa o Kerk, nel silenzio pauroso della notte, sotto una gelida luna, nere le onde come pece. Poi il ritorno festoso, quando nel porto rinasceva la vita e l'incontro con gli amici era gioia. Così per anni il mio remoto passato. Porto della perduta giovinezza, che rivedo a donarmi momenti di liete e stranite memorie. Il problema. Egidio si porse il problema. È l'anima mortale o immortale? E se è immortale, dopo la morte entrerò nel paradiso di Maometto, dove scorrono fiumi di latte e miele, e 32 vergini allieteranno la mia esistenza? O nel fuoco eterno dell'inferno cristiano, dove è pianto e stridori di denti per avere peccato? O infine nella malinconia dell'Ade, a rimpiangere la vita perduta? Per giorni e notti compulsò gli antichi testi, i più vari. Alla fine trovò la soluzione. Varcata la soglia dell'oltre, di sicuro lo saprò. Da Canto desolato. Nessuno immaginava nel silenzio il trillo di una allodola. Pregavo tremante che mi fosse risparmiata un'ondata di nuove chimere. Poi ti trovai, ridente, a rendere lieta la vita. Al tuo sorriso rinverdisce il cuore, come al sole di maggio il prato. Forse mi annunzia questa amicizia una giornata nuova? O forse è pietosa lusinga? Tu vieni con fare elegante, con passo leggero, frusciante, con volto radioso, avvenente. Però non ti attendere molto. Come Davide non danzerò davanti al Signore. Sono la falena, fiamma, teme di bruciarsi le ali. La mia adolescenza fuggì al galoppo di puledri selvaggi, tra nuvole di polvere, e fu anelito di ricerca, rapimento di fuggevoli bellezze. Fuggì nell'illusione di lasciare un'orma dove tutto cancella l'impietoso destino, il tempo rapace. E tu, fuggevolmente, apparivi e sparivi, mistero, che tesse la storia di una vita, senza dirci il perché. Immensa e ambigua è la notte. Avvolge tutte le cose nel suo impalpabile mistero. Spietata inchioda l'uomo smarrito nella sua solitudine. E tu, che nella notte irrompi furente e imperversi nell'anima con imperiose e inquietanti richieste, oh, lasciaci vivere come animale che si sazia di erbe e alle sorgenti si disseta, come il fanciullo lieto che la realtà confonde col sogno. Commiato. La brama della verità è l'ebbrezza dell'illusione. Vissi al crocicchio di due vie del cuore. Il vuoto. Lo sentivo nell'aria frizzante del mattino, nel boccheggiare delle sieste, lo sentivo incombere come un macigno, e poi nello sbarrimento dei rosseggianti tramonti urlare contro di me e perdersi in un'eco infinita. Vuoto, vuoto. Scissi tutti i legami, ancora talvolta lo avverto afferrarmi alla gola, avvolgermi con spire di pitone, così che i sensi frastornati si perdono e senza pronunciare parola, spaventosamente solo, sperduto, rimango. Exitus. Si smarrì l'anima dinanzi a quell'immenso vuoto. Impaurita dalla trasmutazione, come uccello che si rifugia nella folta chioma di un albero, si aggrappò al suo passato mondo finito. Ancora non aveva visto il ciclo incredibile delle rinnovate esistenze. Ma qualcosa, come un vento irresistibile, la strappò al tempo, all'involucro dei giorni, dei ricordi, a tutto ciò che la legava alle abitudini trascorse. Doloroso è il mutamento. Il dolore si mutò in etere. L'anima si fece onda migrante e l'universo la salutò con luci, colori e cosmiche sinfonie. Si unì al tutto ed ebbra dimenticò il finito. Allora, volevo fare una precisazione. Quelli della mia generazione sono cresciuti letterariamente nel clima ermetico. Ai nostri tempi c'erano tre grandi autori che erano diventati i nostri idoli, i nostri miti della giovinezza, ed erano Ungaretti, Montale e Quasimodo. Gli ultimi due ebbero il premio Nobel. Il primo, che forse lo meritava più di tutti perché è stato il vero riformatore della poesia italiana, Ungaretti non lo ebbe. Si era in definitiva stanchi della poesia in parte oratoria del Carducci, solo in parte naturalmente, stanchi dell'ampollosa e retorica poesia del D'Annunzio, estremamente formale, priva di contenuti e di interiorità, anche se musicale e con immagini suggestive. Si era stanchi o insoddisfatti della poesia dei crepuscolari nel suo andamento narrativo per i contenuti troppo domestici e troppo quotidiani, e si cercava qualcosa di nuovo, la poesia pura, qualcosa che scuota, qualcosa che desse la scossa. Come dice Ungaretti, io vedo subito quando una poesia è tale, quando mi comunica la scossa prima ancora di capirla. Un'immagine di origine platonica. Ebbene, questa poesia nuova la trovò Ungaretti, che cercò di ridare il valore primigenio, si diceva aurorale della parola, e quindi isolò la parola con gli spazi bianchi, con le pause, per cui nell'edizione nasceva una particolare musicalità. La trovò Montale nelle prime raccolte di Ossi di Seppia e delle Occasioni, poi divenne oscuro e infine banale. È l'asciutezza ligure, quella sobrietà di linguaggio di Montale avvinceva a quei tempi. E infine Quasimodo, non solo per aver descritto l'incanto della terra impareggiabile, la sua mitica Sicilia, ma perché aveva tradotto i lirici greci, che ebbero una grande fortuna, perché per tradurre poesia ci deve essere un poeta, e seppe ritrovare quella vera, antica, ispirata poesia, quella dei lirici greci di Archiloco, Saffo e così via, e ridarla in forme poetiche nuove, per cui nasceva una certa coincidenza tra la poesia di questi grandi autori e quella antica, una poesia nuova, ritrovata, una poesia pura. Ecco, noi crescemmo in questo ambiente. E qual era la lezione dell'ermetismo dal punto di vista del linguaggio poetico, che è la cosa più importante nella poesia, vero? Più dei contenuti forse, e era quella dell'essenzialità del discorso, del ritrovamento semantico della parola nella sua significazione originaria, era quello della riduzione piuttosto che dell'amplificazione del linguaggio che porta facilmente alla retorica e all'oratoria, con un'aggettivazione quindi piuttosto ridotta. Io amo sempre citare questo verso petrarchesco, quel rossignol che si soave piagne vale molto di più di versi, vero, roanti del cavalier marino, per cui alla fine non si sa più di quale mostro e di quale bestia parli. Quando uno cerca 5 aggettivi per definire un oggetto, vuol dire che non ha trovato quello giusto. Ed ecco allora la prevalenza che dava la poesia ermetica al sostantivo, espressione della sostanza, e al verbo, espressione della stasi o del movimento, ridotta quindi l'aggettivazione, riduzione più che amplificazione del messaggio. Questa è la lezione dell'ermetismo in cui noi a quell'epoca siamo cresciuti, leggendo come fossero delle preghiere queste nuove poesie. Accanto a questa lezione dell'eremotismo c'era poi, non parlo solo per me, ma per quelli della mia generazione, la lezione classica. A quei tempi si studiava molto al liceo classico latino e greco, vero? Latino e greco erano due materie fondamentali e questa poesia ci avvinceva, non tanto quella epica, ma soprattutto quella lirica e dei lirici latini, greci o dell'antologia palatina, e i neoteroi, vero? Catullo, Tibullo, in parte Ovidio, per la freschezza delle loro immagini e per questo linguaggio nuovo. Ecco, questo dal punto di vista stilistico. Poi i contenuti di questo libro, qui si parla a luce al crepuscolo con un chiaro riferimento al personale, vero, alla vita, che sono più giovane, e quindi una carrellata di ricordi, in parte di viaggi compiuti, e poi riflessioni filosofiche, dato che la mia prima formazione è stata filosofica, per cui non posso fare a meno. Filosofica, e diceva teosofica, però già che io appunto aderisco a questo movimento, di cui bisognerebbe avere molto tempo per parlare di che si tratta. Ecco, se ci sono delle domande sarò lieto di rispondere dopo la lettura egregia delle poesie. Intanto ringrazio fervidamente la direttrice che ci ha dato ospitalità, il caro Eugen Galasso, per la sua così precisa, penetrante interpretazione, gli attori che hanno il pregio di rendere sempre più belle le poesie anche di quanto lo sono con la loro recitazione, il professor Nolet, direttore del Centro di Cultura dell'Alto Adige e del Cristallo, che ci onora ogni volta della sua presenza, la cara collega Silvana, gentile, è vero, che ho voluto presenziare, l'amico con cui faremo prossimamente una conferenza sui messaggi delle religioni orientali, il prossimo lunedì alle ore 18, l'avvocato Carlo Borzaga, vero? E speriamo che ci sia pubblico, perché è una cosa interessante anche conoscere queste altre religioni, dette religioni mistiche, che rivelano un'alta spiritualità. Ecco, ringrazio tutti. Se ci sono delle domande, sono pronto a rispondere. E qui ci sono dei libri che do in omaggio ai presenti, vero? Cerchino di prenderli. E grazie. È tutto, finito.